non ho mai partecipato a nessuna riunione mafiosa, non ho mai conosciuto un uomo mafioso, o almeno nei miei incontri non ho mai saputo di aver incontrato qualcuno, se l'ho incontrato senza conoscerlo. Il 20 marzo 1986 è una giornata come altre, nel carcere speciale di Voghera. Il finanziere Michele Sindona si è appena svegliato, è sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone. Una, due, tre mandate. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30. Un istante, non di più. Michele Sindona cade e grida a gran voce. Mi hanno avvelenato! Mi hanno avvelenato! Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso sulla sua branda. Morirà il 22 marzo 1986. 56 ore di agonia. Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto. Nella tazzina di carta che contiene il caffè i periti troveranno tracce di cianuro, un veleno dalle caratteristiche asfissianti, perché blocca l'afflusso di ossigeno al cervello. Ma come è potuto giungere il veleno fin dentro la cella un uomo così potente come Michele Sindona? Nella cella del supercarcere di Voghera Sindona vive in assoluto isolamento, guardato a vista giorno e notte da 15 secondini. Nessuno di loro può sapere la sua missione, lo prevede il rigido regolamento del penitenziario. La consegna dei pasti, colazione compresa, avviene seguendo un rituale complesso. Solo poche persone, tutte identificabili, possono maneggiare le vivande che giungono in contenitori di acciaio chiusi da un lucchetto. Ma chi è? Mi chiede Sindona. Originario di Patti, in provincia di Messina, Michele Sindona diventa nel corso degli anni 60 uno dei più aggressivi banchieri del mondo. Sindona arriverà a controllare un numero incalcolabile di banche, società finanziarie, quasi la metà dei titoli quotati a Piazza Affari. Il suo impero inizia a scricchiolare nel 1974 con il fallimento della Franklin Bank e l'accusa di bancarotta formulata dal governo americano. Tra il 2 agosto e il 16 ottobre 1979, Sindona mette in atto una complicata messa in scena caratterizzata da quattro elementi. Fugge in Sicilia nel 1979, vi resterà nascosto 75 giorni con il chiaro tentativo di evitare l'arresto delle autorità d'oltreoceano. Lo proteggono mafiosi e massoni. In quei giorni produce scritti, spesso contorti ed oscuri, dal fine chiaramente ricattatorio. Sindona viene accusato di essere il mandante dell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, curatore fallimentare liquidatore della sua banca privata. Tutto viene inquadrato nella sceneggiata del suo finto rapimento, attuato da un fantomatico gruppo terroristico di sinistra e conclusosi con un altro inganno, il ferimento dello stesso Sindona. Alla fine viene condannato e poi estradato in Italia. Ma Michele Sindona nega tutto e dice: mai compiuto illeciti. Ne è convinto il finanziere. Io posso affermarle senza tema di smentita che durante la nostra gestione, prima che entrasse il Banco di Roma, mai una sola lira è stata regolarmente trasformata in dollari dalla banca privata finanziaria. Quindi quel marchingegno, questa è la parola che hanno usato i giornalisti, di cui si parla, non può esistere, non è esistito, non può esistere. La banca privata non ha mai fatto questa operazione. Michele Sindona sa che Giorgio Ambrosoli è un uomo che non si arrende facilmente. Lui vuole andare avanti fino in fondo. Le prove sui suoi malaffari le ha già trovate davvero. Un crack finanziario impressionante, soldi provenienti dalla mafia. Per questo Sindona lo vuole morto. I suoi sicari per giorni parleranno al telefono con Ambrosoli. Prima invieranno minacce più generali nei giorni che precedono l'uccisione dell'avvocato. Sono accortissimo, l'avvocato Ambrosoli. Un attimo solo, prego. Pronto? Pronto, avvocato? Sì? Mi sono spiegato bene. Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia e io Esatto, cosa ci posso... ha telefonato là,

Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archivierà la morte di Sindona con questa motivazione. Il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano alla fine abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Ad oggi il mistero non è ancora stato risolto.